America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Breaking news, information, Ahmad Khan Rahami now in custody. Beh, l'incubo è finito, avete sentito la notizia dell'arresto di Ahmad Khan Rahami. Devo dire, è finita anche per me, perché abito a due isolati da dove c'è stato l'attacco. E lasciatemi elogiare le forze dell'ordine americane, perché in poche ore attentati a New York, New Jersey, che sembravano lontani fra loro, sono stati ricondotti alla mano comune di Rahami, arrestato poi dopo uno scontro a fuoco ieri mattina. Un successo, devo dire, ammirevole, perché questo Rahami è un cane sciolto e le forze di sicurezza hanno come obiettivo primario quello di prevenire un attacco di vaste proporzioni tipo torri gemelle. Bravi, dunque. Ma veniamo alla politica, perché in un anno elettorale il risvolto c'è e come, e Rahami è un afghano naturalizzato americano. Ecco, qui non è soltanto una questione semantica su cosa sia o non sia il terrorismo, come ci aveva detto l'altro giorno Andrew Cuomo, governatore di New York, democratico, sostenitore di Hillary. Oggi sappiamo che l'attacco a Chelsea e New Jersey era terrorismo di matrice islamica. Ecco, i democratici sono stati opachi sui termini, hanno perso un altro colpo contro Donald Trump, che invece ha avuto un approccio aggressivo contro quello difensivo di Hillary e dei suoi compagni di partito. Ecco, questa dicotomia è importante, perché Donald Trump, per esempio, ha dato per primo la notizia della bomba, ha colto tutti di sorpresa, anche le stazioni televisive che ancora non l'avevano data e l'aveva avuta dai servizi. Poi ha attaccato i terroristi che si camuffano da immigrati, ha detto, ed è ora di finirla, ha detto ancora, con il buonismo che ha messo in ginocchio l'America, ha promesso di sradicare il male con tono fermo, forte, deciso, arrabbiato. Ecco, forse Trump è stato poco presidenziale, però come suo solito è stato alla fine pragmatico, efficace, e quindi il risultato è che ha colpito direttamente alla gola Hillary Clinton, la quale all'inizio invece ha preferito la correttezza politica su cos'è terrorismo al piglio necessario per chi deve guidare gli Stati Uniti d'America. Ma di terrorismo e immigrazione, visto che appunto Rahami è un naturalizzato, un immigrato negli Stati Uniti, si è parlato anche a New York. Sentiamo una mia domanda al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che partecipa ai lavori delle Nazioni Unite. Questo attacco terroristico dimostra quanto fragile sia la situazione. Quindi oggi si parla all'ONU di immigrazione, di rifugiati. Ecco, qual è il collegamento, secondo lei, fra quello che è successo a New York e quello che dovrebbe succedere all'ONU? No, io non vedo un collegamento diretto. Come è noto, ne abbiamo parlato a lungo, ma la questione migratoria è diversa dalla questione terrorismo, e credo che sia un pericolo sovrapporle insieme. Ecco, ieri il tema dell'immigrazione e dei rifugiati è stato al centro del dibattito all'ONU. Renzi ha dunque respinto l'idea che immigrazione, rifugiati, terrorismo possano essere variabili di una stessa equazione. È stato anche caustico e molto deciso nelle sue dichiarazioni contro certe miopie europee in materia di sviluppo. L'Europa è ferma, stanca, inattiva, incapace di reagire, di cogliere l'occasione per il suo rilancio dopo Brexit, ci ha detto Renzi, e ha citato proprio la mancanza d'azione sull'Africa. Insomma, senza sviluppo la gente non resta a casa, cerca la fuga. La sua delusione è anche legata al recente vertice di Bratislava, un esempio di questa miopia, dove di Africa non si è parlato, dice, e questa è una svolta, secondo Renzi, che autorizza, ha detto, l'Italia a muoversi da sola in Africa. Ecco, poi Renzi ha elaborato su vari fronti, ha detto che il governo avrà un ruolo di coordinamento sul fronte immigrazione, coordinando vari ministeri, ha ascoltato quel che ha detto il sindaco di Milano Sala, confermando che solo il 10% dei comuni italiani partecipa ai programmi di assorbimento dei rifugiati, e questo andrà cambiato. Ecco, a fronte, devo dire, di queste complessità del terrorismo, dell'economia, dei rifugiati, vorrei fare una pausa. Perché? Perché oggi la 71esima Assemblea Generale dell'ONU, che si apre fra qualche ora, sarà inaugurata da chi? Dal nostro Andrea Bocelli. Ecco, non era mai successo prima che un cantante inaugurasse l'Assemblea dell'ONU. Una voce, devo dire, per coagulare emozioni e ragione. Bocelli in questi giorni ha già cantato a New York con i 35 bambini della Voices of Haiti, un coro di figli del terremoto appoggiato dalla sua fondazione, Andrea Bocelli Foundation. Ma non voglio parlare io, voglio che la storia ce la racconti direttamente Andrea, che è qui con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Andrea. Buongiorno Mario. Beh, dunque, diciamo che tutto è cominciato, potrei dire, con un incontro che per me è stato molto importante, l'incontro con Padre Rick, Chi è Padre Rick? Padre Rick è, a mio parere, un eroe dei nostri tempi. È un uomo che è arrivato a Haiti più di 25 anni fa da sacerdote. Ha visto la situazione, ha preso atto di quello che stava succedendo lì e ha pensato che la cosa più utile da fare in quel momento fosse tornare in America, laurearsi in medicina e tornare lì come sacerdote e come medico. Io ho conosciuto quest'uomo, ho cominciato a collaborare con lui, poi è nata la mia fondazione qualche anno fa e da allora sono state costruite delle scuole, sono stati aiutati gli ospedali, creato dei reparti nuovi, eccetera. Insomma, molte cose sono state fatte e oggi questi 35 bambini arrivano da Haiti pieni di speranza, di ottimismo, vedono un mondo a loro totalmente sconosciuto perché ovviamente la maggior parte di loro non ha mai visto né ha avuto un televisore, non ha mai ascoltato una radio, cioè è un mondo proprio assolutamente distante dal nostro. Eppure questa esperienza è un'iniezione di fiducia, di speranza e un motivo enorme di crescita immediata per loro. Magari ascoltiamoli un momento, ascoltiamo una delle prove che sono state fatte coi bambini mentre tu cantavi con loro. Devo dire, dai brividi, Amazing Grace, fatta in modo straordinario. Ecco, come li avete selezionati, raccolti? Come è nata l'idea? La selezione è avvenuta grazie al lavoro di un musicista che naturalmente ha cercato, nell'ambito del materiale che aveva, i più dotati, i più talentuosi. Naturalmente siamo solo agli inizi, i bambini cantano ancora, sono alle loro prime armi naturalmente, ma noi siamo tutti convinti che la musica sia uno strumento di crescita ineguagliabile. Sant'Agostino diceva: chi canta prega due volte, no? E questi bambini sono la speranza dell'Haiti di domani, perché loro, attraverso le loro esperienze, attraverso le loro acquisizioni, attraverso l'istruzione che la scuola potrà loro dare, forniranno al paese l'unico vero motivo di grande speranza. Ecco, abbiamo davanti a noi un mondo difficile. C'è un po' di speranza, secondo te, anche dall'esperienza che hai avuto con questi ragazzi? No, c'è molta speranza. Sarà che sono abituato a cantare da solista e parlo sempre fuori dal coro, ma io trovo veramente assurde tutti questi pessimismi. E se noi guardiamo il mondo di 50 anni fa o di 100 anni fa, vediamo quanto il mondo sia andato avanti, quanto la vita sia migliorata. Quindi io sono assolutamente pieno di speranza e credo anche nella possibilità che organismi come l'ONU, attraverso il dialogo, possano fare molto. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!